sciolgo una rosa soltanto dal giardino pieno, e sarò io a darti il fiore con le mie mani. E non pensare come il tempo potrà appassire quella rosa, resta con mente serena, cerca di sognare, cancellerò ogni paura, nuove certezze avrai e consapevolezza, se potrò entrare dentro la tua. Oh,